noi siamo qui in un paesino alle porte di Francoforte, bloccati dalle guardie. Poi però siamo partiti stamattina all'1, ci hanno fermato a una ventina di chilometri da Francoforte e ci hanno portato in una piazzola a mezzo parcheggio pieno di polizia. 3 pullman che partivano da Berlino, perquisizioni approfondite a tutti. Dopo circa 4 ore ci hanno lì liberato, dicendoci che ci avrebbero voluto scortare a nord verso Berlino. Siamo riusciti in una trattativa di arrivare a questo paesino abbastanza desolato. L'assemblea del primo pullman, circa 50 persone, ha deciso, tra le varie cose, di rimanere qui ed aspettare notizie dagli avvocati di Francoforte. Tra le varie opzioni c'erano quelle di prendere una S-Bahn, perché qui passa una S-Bahn che ti porta a Francoforte, ma c'era la paura da parte di tutti i manifestanti di essere arrestati, in quanto le guardie ci hanno intimidito dicendoci che se avessimo provato a prendere questa famosa S-Bahn ci avrebbero arrestato a tutti. Non so con quale accusa, nel senso che noi siamo in questo momento con un foglio di via, tutti schedati, fotografati e filmati, e siamo diffidati dal centro di Francoforte, quindi in teoria noi non possiamo superare una linea rossa. Loro però ci stanno dicendo in questo momento che non possiamo neanche prendere nessun mezzo che vada verso Francoforte. Noi ci stiamo facendo delle passeggiate per capire un po' la situazione e ci sono posti di blocco in tutte le viuzze che portano in direzione Francoforte, quindi la situazione è abbastanza tragica. In confronto Copenhagen Climate Change era una passeggiata di salute, nel senso che la privazione della libertà qui ormai è arrivata a un livello pesantissimo. I tedeschi poi non si permettono di fare nessun tipo di gesto e forzatura contro quello che gli viene imposto dalle guardie. Siamo in contatto con i compagni italiani che stanno venendo su con gli autobus, che sembra che siano riusciti a passare senza essere stati fermati, anche perché quello che è successo stamattina a noi alle 7 è stato qualcosa di abbastanza strano e triste, nel senso che ci hanno fermato così arbitrariamente, senza nessun motivo, non hanno trovato nulla di compromettente. Adesso vaghiamo per questa cittadina, alle 2 ci sarà un altro meeting per capire come muoversi, siamo in contatto con gli avvocati, siamo in contatto con le persone che stanno, con i compagni che stanno a Francoforte, siamo in contatto con gli altri compagni degli altri 2 autobus che dovrebbero essere ancora fermi lì a farsi perquisire le parti più intime. Dovremmo capire un attimino come proseguire. Speriamo che questa assemblea di 50 persone non decida di fare il camping qui, perché la tristezza è abbastanza pesante. Fare un blocco una piazzetta di un paesino pieno di ristoranti italiani, dei calabresi e dei tedeschi vestiti di beige. L'obiettivo è quello di riunirsi qui e cercare in forze di andare verso Francoforte. Abbiamo capito che neanche a piedi ci possiamo andare perché ci sono posti di blocco ovunque. L'unica nota positiva è che i saccheggi agli autogrill sono stati abbastanza belli e simpatici, non si vedevano così a mio avviso dalle ultime trasferte del fine 90 con la Roma, gente che si prendeva scatole d'occhiali, pupazzi e cose del genere, quindi questo è l'unico dato positivo della trasferta Blockupy Francoforte. Vi faremo sapere tra un pochino le nuove. Un bacio a tutti dalla triste cittadina. A presto, ciao.